Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Amico, disse Montecristo, ascoltatemi. Un giorno, in un momento di disperazione uguale alla tua, io volevo uccidermi come te. Tuo padre, un giorno, ugualmente disperato, voleva uccidersi. Se qualcuno avesse detto a tuo padre, nel momento che puntava la canna della pistola verso la fronte, se qualcuno mi avesse detto, quando allontanavo dal mio letto il pane del carcerato, che non toccavo da 3 giorni, se qualcuno, insomma, in quei supremi momenti ci avesse detto, vivete, e verrà giorno che sarete felici, e benedirete la vita. Da qualsiasi parte ci fosse venuta questa voce, l'avremmo accolta con il sorriso del dubbio o con l'angoscia dell'incredulità. Eppure, quante volte tuo padre, abbracciandoti, non ha benedetto la vita? Quante volte io stesso? Voi non avevate perduto che la libertà? Gridò Morrel interrompendo il conte. Mio padre non aveva perduto che le ricchezze. Io ho perduto Valentin. Guardami, Morrel, disse Montecristo con quella solennità che in certe occasioni lo rendeva grande e persuasivo. Guardami. Io non ho né lacrime né occhi, né palpiti di disperazione nel cuore. Eppure vedo soffrire te che amo come un figlio. Maximilien, il dolore è come la vita, al di là della quale c'è sempre qualcosa di ignoto. Ora, se io ti prego, se ti ordino di vivere, Morrel, è perché sono convinto che un giorno mi ringrazierai di averti conservato la vita. Mio Dio! Gridò il giovane. Mio Dio, che cosa dite, conte? Voi forse non avete mai amato! Bambino! Rispose il conte. Io, riprese Morrel, sono un soldato da quando sono diventato uomo. Sono arrivato fino ai 29 anni senza amare, perché nessuna delle sensazioni che ho provato fino ad allora merita di chiamarsi amore. Ebbene, a 29 anni ho visto Valentin. L'amo da quasi 2 anni. Da quasi 2 anni ho potuto leggere tutte le virtù di figlia e di donna, scritte dalla stessa mano del Signore in questo cuore aperto per me come un libro. Conte, Valentin era per me una felicità infinita, immensa, ignota, una felicità troppo grande, troppo completa, troppo superiore a questo mondo, e questo mondo non me l'ha concessa. Senza Valentin per me sulla terra non c'è che disperazione e desolazione. Vi ho detto di sperare, ripeté il conte. State guardingo, disse Morrel. Mentre cercate di persuadermi, mi fate invece perdere la ragione, giacché mi fate credere che io possa rivedere Valentin. Il conte sorrise. Spera, amico mio, ripeté il conte. Orsù, sai di che cosa è capace il conte di Montecristo? Sai che comanda molte potenze terrestri? Sai che ha tanta fede in Dio da ottenere miracoli da colui il quale disse che l'uomo, con la fede, smuove una montagna? Ebbene, questo miracolo che io spero, aspettalo. Oppure, ripeté Morrel, oppure io stesso ti porrò davanti 2 pistole cariche, o una tazza del più sicuro veleno d'Italia, più infallibile, più veloce di quello che ha ucciso Valentin. Me lo promettete? Non te lo prometto, te lo giuro, disse Montecristo tendendo la mano. Entro un mese, sul vostro onore. Se non sono consolato, mi lasciate libero della mia vita e qualsiasi cosa ne faccia, non mi giudicherete ingrato. Fra un mese, stesso giorno, Maximilien, e la data è sacra. Non so se ci hai pensato, oggi è il 5 di settembre. Sono 10 anni oggi che ho salvato tuo padre. Morrel strinse le mani del conte e le baciò. Il conte lo lasciò fare, come se capisse che questa adorazione gli era dovuta. Fra un mese, continuò Montecristo, avrai sulla tavola alla quale saremo seduti tu ed io delle buone armi e una dolce morte. Ma in cambio, mi prometti di aspettare fino ad allora e di vivere? Ve lo giuro, esclamò Morrel. Uno dei raggi della Force, quello che racchiude i detenuti più pericolosi, si chiama Cortile Saint-Bernard. I prigionieri, nel loro gergo, l'hanno soprannominato la fossa dei leoni, probabilmente perché molti di loro spesso mordono le inferriate e non di rado i carcerieri. È questa una prigione nella stessa prigione. Le mura sono spesse il doppio delle altre. Nel cortile Saint-Bernard che abbiamo descritto passeggiava, con le mani nelle tasche dell'abito, un giovane osservato con molta curiosità dagli abitanti della fossa. «Benedetto!» gridò un ispettore. «Sono chiamato?» disse Andrea. «In parlatorio!» disse la voce. Dietro l'inferriata del parlatorio dove Andrea fu introdotto scoprì, con i suoi grandi occhi dilatati ancor più da un'avida curiosità, la figura cupa e intelligente del signor Bertuccio, il quale guardava con dolorosa meraviglia le inferriate, le porte sprangate e l'ombra che si agitava dietro le sbarre. «Buongiorno, Benedetto», disse Bertuccio con la sua voce chiara e sonora. «Voi, voi», disse il giovane guardando con spavento intorno a sé. «Non mi riconosci più?» disse Bertuccio. «Giovane disgraziato! Silenzio, silenzio dunque!» disse Andrea, che conosceva la finezza dell'udito di quelle mura. Mio Dio, non parlate così ad alta voce!» «Tu vorresti parlare con me?» disse Bertuccio. «A quattro occhi, non è vero?» «Sì, sì», disse Andrea. «Sta bene». E Bertuccio chiamò con un cenno un guardiano che li condusse in una cella del primo piano prospiciente il cortile. La cella era imbiancata a calce, come è d'uso nelle prigioni. Un braciere, un letto, Una sedia, una tavola costituivano il sontuoso arredamento. Bertuccio si sedette sulla sedia, Andrea si gettò sul letto. Il guardiano si ritirò. «Risparmiamo le parole inutili», disse Benedetto. «Chi vi manda?» «Nessuno». «E come avete saputo che sono in prigione?» «È da molto tempo che ti ho riconosciuto in quell'elegantone insolente che guidava tanto leggiadramente un cavallo agli Champs-Élysées». «Gli Champs-Élysées? Gli Champs-Élysées?» «A noi. Parliamo un poco di mio padre. Lo volete?» «Chi sono io, dunque?» «Voi, mio bravo signore? Voi siete il mio padre adottivo. Ma non foste voi, immagino, a mettere a mia disposizione un centinaio di migliaia di franchi che ho divorato in 4 o 5 mesi. Non foste voi a provvedermi di un padre italiano e nobile. Non foste voi a farmi entrare nel gran mondo e a invitarmi a un certo pranzo dove mi pare di essere ancora a Auteuil, con la migliore gente di Parigi, con un certo procuratore del re di cui ho avuto il grandissimo torto di non coltivare la conoscenza. Sentiamo, parlate, stimabile Corso, parlate. E che cosa vuoi che ti dica? Ti aiuterò io. Tu parlavi degli Champs-Élysées poco fa, mio degno padre adottivo. Ebbene? Ebbene. Agli Champs-Élysées abita un signore molto, ma molto ricco, in casa del quale tu hai rubato e assassinato, non è vero? Sì, credo di sì. Il signor Conte di Montecristo. Siete voi che l'avete nominato. Non scherziamo, rispose gravemente Bertuccio. E tale nome non sia qui pronunciato. E perché no? Fece Andrea, un po' stordito dal sussiego e dal contegno del signor Bertuccio. Perché chi porta quel nome è troppo protetto dal cielo per essere padre di un miserabile come voi. Che paroloni! Attento, state in guardia. Minacce? Io non temo niente. Credete di avere a che fare con dei pigmei della vostra specie? Disse Bertuccio con tono così calmo e con uno sguardo così sicuro che Andrea ne fu profondamente colpito. Credete di avere a che fare con i vostri scellerati compagni di galera? O con quegli ingenui che avete raggirato in società? Benedetto, voi siete in mani terribili. Se vogliono aprirsi per soccorrervi, approfittatene. Non giocate però con il fulmine che quelle mani per un momento depongono, ma che possono riprendere se tentate di intralciare il loro libero movimento. Mio padre! Io voglio sapere chi è mio padre! Ripeté ostinato. Morirò se occorre, ma lo saprò. Che cosa può fare a me lo scandalo? Del bene, del credito, de réclame, come dice Beauchamp, il giornalista. Voi persone dell'alta società, voi avete sempre qualche cosa da perdere nello scandalo, malgrado i vostri milioni e i vostri stemmi gentilizi. Chi è mio padre? Sono venuto per dirtelo. Ah! Gridò Benedetto, con gli occhi scintillanti di gioia. Era il giorno in cui doveva aver luogo la prima seduta della corte d'assise. Quel giorno Villefort lo vide spuntare tetro e sinistro. «Oggi», disse con uno sforzo, «oggi l'uomo che impugna la spada della giustizia dovrà colpire ovunque si trovino i colpevoli». E Villefort, con il plico delle carte sotto il braccio e il cappello in mano, si diresse verso l'appartamento di sua moglie. Sulla porta si fermò un istante e si asciugò con il fazzoletto il sudore che gli imperlava la fronte livida. Quindi entrò. La signora di Villefort era seduta su un divano e sfogliava nervosamente dei giornali e degli opuscoli. Il signore di Villefort andò alla porta e la chiuse con il chiavistello. «Oh mio Dio!» esclamò la giovane sposa guardando suo marito fin nel profondo dell'anima e forzandosi ad un sorriso che venne troncato dall'impassibilità di Villefort. «Che cosa c'è dunque?» «Signora, dove mettete il veleno di cui vi servite di solito?» disse chiaramente senza preamboli il magistrato, postosi fra la moglie e la porta. La signora di Villefort provò ciò che deve provare l'allodola quando vede il nibbio stringere i suoi cerchi mortali sulla sua testa. Un suono rauco, tronco, che non era né un grido né un sospiro, sfuggì dal petto della signora di Villefort, che impallidì fino a diventare livida. «Signore», disse, «io non capisco». «Vi ho domandato», continuò Villefort con voce perfettamente calma, «in quale luogo nascondete il veleno con cui avete ucciso mio suocero, mia suocera, Barrois, e mia figlia Valentine?» «Signore», gridò lei giungendo le mani, «che cosa dite?» «Non dovete interrogare, ma rispondere». «Al giudice o al marito?» balbettò la signora di Villefort. «Al giudice, signora, al giudice». Era terribile vedere il pallore di quella donna, l'angoscia del suo sguardo, il fremito di tutto il suo corpo. «Signore», mormorò, «signore», e non disse altro. «Voi non rispondete, signora», gridò il terribile inquirente. Quindi soggiunse con un sorriso ancora più spaventoso della sua stessa collera: «Però non negate». Lei fece un movimento. «E non potreste negarlo», aggiunse Villefort stendendo una mano verso di lei come per afferrarla in nome della giustizia. «Avete compiuto questi delitti con impudente scaltrezza, ma non potevate ingannare le persone troppo affezionate alle vittime e non certo disposte ad essere cieche. Così i vostri delitti stanno per diventare pubblici. E come vi dicevo, signora, non è più un marito che vi parla, è un giudice». La giovane sposa nascose il viso fra le mani. «Signore», balbettò, «ve ne supplico, non credete alle apparenze. Sareste anche vile», gridò Villefort con accento di disprezzo. «Voi, che avete avuto l'orribile coraggio di vedere spirare davanti ai vostri occhi due vecchi e una giovane assassinati da voi. Signore, signore, sareste vile», continuò Villefort con crescente esaltazione. «Voi, che avete contato ad uno i minuti di quattro agonie. Voi che avete combinato i vostri piani infernali, rimescolato le vostre infami bevande con un'abilità e una precisione meticolose. Voi che avete così ben calcolato tutto, avreste dimenticato di calcolare una cosa sola, cioè che potevate essere condotta alla confessione dei vostri delitti». «Ah, questo è impossibile. Sicuramente voi vi serbate qualche veleno più dolce, più sottile e più mortale degli altri per sfuggire alla punizione che vi è dovuta. Voi lo avrete fatto, almeno lo spero». La signora di Villefort alzò le braccia al cielo, torcendosi convulsamente le mani, l'una con l'altra. «No, no!» gridò. «No, voi non volete questo!» «Ciò che io non voglio, signora, è che compariate sul patibolo. Mi capite?» disse Villefort. «Oh, signore! Signore, grazia!» «Ciò che io voglio è che sia fatta giustizia. Io sono sulla terra per punire, ribadì il procuratore con uno sguardo fiammeggiante. E un'altra donna, forse anche una regina, la manderei dal carnefice. Ma con voi sarò misericordioso. Non avete, signora, conservato qualche goccia del vostro veleno più dolce, più rapido, più sicuro? Perdonatemi, signore, lasciatemi vivere. Siete vile, disse Villefort. Pensate che sono vostra moglie, siete un'avvelenatrice. In nome del cielo, no! In nome dell'amore che avete avuto per me, no, no! In nome di nostro figlio, oh, per nostro figlio, lasciatemi vivere! No! No, vi dico! Se vi lasciassi vivere un giorno, forse ucciderete anche lui come tutti gli altri. Io? Uccidere mio figlio? Gridò quella madre selvaggia lanciandosi verso Villefort. Io uccidere il mio Edouard? Ah, no, no. E un riso spaventoso, demoniaco, un riso folle portò a termine la frase e si perdette in un rantolo sconvolgente. La signora di Villefort era caduta ai piedi di suo marito. Villefort le si avvicinò. Pensateci, signora, disse. Se al mio ritorno non è stata fatta giustizia, vi denuncio io stesso e vi arresto con le mie proprie mani. «Accusato», disse il presidente, «il vostro nome e il vostro cognome». Andrea si alzò. «Perdonatemi, signor presidente», disse con voce ferma. «Vedo che avete scelto un ordine di domande nel quale non posso seguirvi. Vogliate dunque, ve ne prego, permettermi di rispondere seguendo un ordine diverso. Risponderò ugualmente a tutte le domande». «La vostra età?» disse il presidente. «Risponderete a questa domanda?» «Ho 22 anni, o piuttosto, li avrò fra qualche giorno, essendo nato nella notte fra il 27 e il 28 settembre 1817». Il signore di Villefort, che era occupato a prendere un appunto, nel sentire quella data, alzò la testa. «Dove siete nato?» continuò il presidente. «A Auteuil, vicino Parigi», rispose Benedetto. Il signore di Villefort alzò una seconda volta la testa, guardò Benedetto come se avesse guardato la testa di Medusa e divenne livido. «La vostra professione?» domandò il presidente. «Prima ho fatto il falsario», disse Andrea con la massima tranquillità. «In seguito sono passato a fare il ladro e recentemente sono diventato assassino». Un mormorio, o piuttosto una tempesta di indignazione e di sorpresa, scoppiò in tutta la sala. «È forse adesso, accusato, che acconsentite a dire il vostro nome?» domandò il presidente. «Non posso dirvi il mio nome, perché non lo so, ma so quello di mio padre e posso dirvelo». «Dite allora il nome di vostro padre», riprese il presidente. Mio padre è un procuratore del re. Si chiama Villefort. L'esplosione, così a lungo trattenuta per il rispetto che si porta alla giustizia, scoppiò come un tuono dal fondo del petto di tutti. Signori! Continuò Andrea, esigendo il silenzio con il gesto e con la voce. Vi devo la prova e la spiegazione delle mie parole. Sono pronto a darvele. Nacqui al primo piano della casa al numero 28 di Rue de la Fontaine. Mio padre mi raccolse nelle sue braccia dicendo a mia madre che ero morto e mi portò in giardino, dove mi seppellì vivo. Un fremito percorse tutti gli astanti quando videro che la sicurezza dell'imputato cresceva quanto il terrore del signor di Villefort. «Ma come fate a conoscere tutti questi dettagli?» domandò il presidente. «Ve lo dirò, signor presidente. Nel giardino in cui mio padre mi aveva sepolto, si era introdotto in quella stessa notte un uomo che lo odiava mortalmente e che lo spiava da lungo tempo per compiere su di lui una vendetta corsa. L'uomo si era nascosto in un boschetto. Egli vide mio padre nascondere un involto sottoterra e lo colpì con una coltellata nel mezzo di questa operazione. Quindi, credendo che questo involto nascondesse qualche tesoro, lo dissotterrò e mi ritrovò ancora vivo. Quell'uomo mi portò all'ospizio dei Trovatelli. 3 mesi dopo sua sorella fece il viaggio da Rogliano a Parigi per venirmi a cercare, mi reclamò come suo figlio e mi portò con sé. Certamente potevo essere felice presso quella brava gente che mi adorava, ma la mia indole, perversa sin dalla nascita, ebbe il sopravvento su tutte le virtù che la mia mamma adottiva si sforzava di instillarmi nel cuore, crebbi nel male e giunsi a commettere delitti. Un giorno, in cui maledicevo Dio per avermi fatto così perverso e per avermi assegnato un destino così abietto, mio padre adottivo mi disse: «Non bestemmiare, disgraziato, poiché Dio ti ha dato la luce senza collera. Il delitto viene da tuo padre e non da te, da tuo padre che ti aveva destinato all'inferno se fossi morto, alla miseria se un miracolo ti avesse conservato la vita». Da quel giorno cessai di bestemmiare, ma maledissi mio padre. Ecco, signor presidente, perché ho provocato lo scandalo per il quale freme ancora questa assemblea. Se questo è un delitto in più, punitemi. Ma se vi ho convinto che dal giorno in cui nacqui il mio destino fu fatale, doloroso, lacrimevole, amaro, compiangetemi. «Ma vostra madre?» domandò il presidente. «Mia madre mi credeva morto. Mia madre non è colpevole. Non ho voluto sapere il nome di mia madre. Non la conosco». In quel momento, un grido acuto che terminò in un singhiozzo si levò dal gruppo che attorniava una donna che, in preda a una violenta crisi di nervi, fu portata fuori dall'aula. Nel trasportarla, il fitto velo che nascondeva il suo viso si scostò e si poté riconoscere la signora Danglars. Thank you.